11.04 prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino, che come sempre sarà qui a tenervi compagnia sulle libere frequenze di Blackout fino alle 12.45. Oggi in studio Francesca e Costanza. Quindi un buongiorno a tutti e a tutte, mandiamo un saluto anche a Eddie che oggi non riesce a essere qua e soprattutto anche ai nostri compagni e compagne che in questo momento si trovano a Palazzo Nuovo e che stanno mandando in onda Parole Ribelli nell'atrio, quindi un saluto. Noi vi lasciamo ancora in compagnia della sigla e di un pezzo musicale, poi iniziamo con la puntata. Face. 10. Prima ci siamo dimenticati di ricordare i contatti per metterci in comunicazione con noi qui in radio, ve li leggo subito. Allora, il numero fisso 011 2495 669, mentre per il cellulare 346 6673 263. Allora, presentiamo un po' la puntata di oggi, di questo martedì 16 dicembre per Parole Ribelli. Le dirette che avevamo pensato erano... E prima di tutto andremo a Cagliari, dove venerdì hanno occupato un nuovo studentato, e vedremo di metterci in contatto con i compagni di giù. E successivamente faremo un collegamento invece da Bergamo per insomma la parte più di approfondimento culturale che abbiamo inaugurato quest'anno all'interno di Parole Ribelli. Ci faremo raccontare di un progetto di una crew di hip hop militante che insomma una serie di idee in cantiere. Ci faremo raccontare un po', andremo anche a ascoltare qualcuno dei loro pezzi, e se riusciamo vorremmo anche fare il collegamento che non sono riusciti a fare durante l'info Maurizio e Lorenzo, quindi rispetto alla sentenza che domani deciderà delle sorti di Chiara Claudio, Mattia e Niccolò, e soprattutto in riferimento all'appuntamento che ci sarà poi la sera a Bussoleno. Vediamo appunto se riusciamo a fare noi questo collegamento. Questo è più o meno quanto. Volevamo dare anche qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Messico, ma durante l'info hanno fatto già una diretta piuttosto approfondita con i compagni e le compagne di Solidaria 43, questo collettivo Messico-Italia che appunto si sta occupando di seguire la vicenda e soprattutto di raccontarla anche al di fuori dei confini messicani. Quindi insomma rimandiamo un po' a quell'approfondimento, al massimo andremo a dare un paio di notizie veloci. E questo è più o meno quanto per questa puntata, noi vi lasciamo ancora a un po' di musica mentre prepariamo la prima diretta. Buon ascolto. Myself together, put on a new face, climb down off the hilltop, baby. Oh, I get back in the race, 'cause I've got dreams, yeah, dreams to remember. Yeah, yeah, I've got dreams, oh, dreams to remember. Help, help, help. Ciao. My destiny rules everything around me. Dream, get the money. Dollar, dollar bill, y'all. Everybody put their palms in the clouds. Get your hands in the sky. It's not a problem to feel, y'all. Even if eyes broke as fuck, I would lend you my last so you can holler at me still. PMC, in the place to be. On the MIC, still spitting that real, y'all. You know the limericks are limitless. Not limited, it's infinite. What increments of infinite potential in this team? You can benefit from getting off of the internet for just a minute. It's a simple song you can sing. Oh, memorex. When it hits the spirit, it pulls the heartstrings. Infamous and kindred, it's intrinsic when it's still the nuts from the genesis. When we remember to dream, just dream. Determination runs every aspect mentally. I'm no dummy. Scholar got skill. Can't take what I've ritualized from it. You pull the wool over my eyes. I swallowed the red pill. Even if eyes broke, fuck, I would lend you my last. You can holler at me still. Everybody puts their arms in the clouds. Welcome to the age of Aquarius and the stages of various schemes. Precariously, I skate when I dream. Each scene should win an academy. Put it up on a screen. My strategy, Pharaoh's the king and queen. The fiend for teens to view it as the new theme music. Use it to shape their futures when they daydream to it. Never abusive, never claim stupid. Lucid, boost your acoustics when you sing to it. And just dream, dream, dream, dream, dream, dream. You know I'm downright excellent about my thrill to get the money. Dollar, dollar bill, y'all. I got you strung out on the music, so I'm sorta like a dealer to a junkie. Swallow that pill, y'all. Sometimes it rains in Southern Cali and Philadelphia ain't always sunny. Just keeping it real, y'all. Tyler Quali, in the place to be. You already know the deal, y'all. Yeah. 5 o'clock in the morning, just getting home from last night's performance. When I'm dead tired from touring, I hit the coffin. I'm like a vampire required to stay dormant. Out of the range of sunlight, where the data remain. I used to smoke so much weed that it clouded my brain. I took a break, had to find life, meaning to get. Without the smoke in my lungs, started dreaming again. I dreamed of candy-coated cars and panties that go with bras. Hurricanes named Sandy, I'm flipping the Noah's Ark. What? Police will bleed blue because they staying true to the uniform. And Dennis Rodman in North Korea looking for unicorn tickets. I'm one of the best, and when you snooze, that's when you meet the cousin of death. So when I say I never visit the cousin, I don't sleep. I stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. Independence is set, going at them. Right now I'm about to drop something for the lock the whole world. Believe me, it's going to Jamaica already. Long time. I'm it, let a white to the sea alongside Chinese man. Big on the bank and tie with them see and the big bad mind to Johnny and Bird. Let it to them, my independence is set. Dream. Freedom is set. Free speech, free movement. And I know, independence. World independence record. Of the place, be of the words and the power and sound. I strictly play the music just around the town. They say, whoa, whoa, whoa, whoa, why? It's like the freedom music, music, independence music, music. I think you're free of the drum, they free of the bass, free of the rhythm, every night of the place, be of the words and the power and sound. I strictly play the music, I go around the town. They say, whoa, whoa. Freedom music, music, independence music. make it easy, spread vibes, all up, no stress, do it our way, everything blessed. Tennis and the business still independent. Who know here, who we say, who know here, nothing yet. Coming in every year, watch how we sweat. Chop on the business, I'm mash it up, select a bunch, you pull it up. Tell it about you, the one in the family, the chain is in the area. Come follow, we know we bust it, can't see no ready yet. In the days we listen to reggae music, like I said. Nowadays, radio DJs have to play yet. We are the band, we are the youth, we are the slim. We are the way together, we are independent. We no brag, we no boast, we sing and we are toast. Freedom music is we are from all. They can free up the drum, they say free up the bass. Free up the rhythm, every nice of the place. Free up the world and the power and sound. I think the freedom music, I go round the town. They say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This is the freedom music, music. Independence music, music. You can make it happen, only you can make it happen by yourself. Don't wait for nobody else. You can make it happen, only you can make it happen by yourself. Don't let me leave you by the shelf. Only you can make it happen, only you can make it warm. Set a one a thing, a million one a platform. You can make it happen, and you leave the busy time. Some of them have to stop you, tell them we try. Because the more the time is up, the more we go harder. I know for them, the one to see we cross the border. Tell the one we make it, the one we hungry and mad. But we reach this far through the grace of the Father. Bad mind and free, we no matter that. And then everybody know we seen a lot of that. Talk them a talk, they could have talk till them stop. Independently, we have a shot to the top. I beg you, free up the drum, we say free up the bass. Free up the rhythm, make we nice up the place. Free up the word and the power and sound. I think we free the music, I go round the town. We say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This are the freedom music, music. Independence music, music. Let go the rhythm, he say, let go the vibe. Let go the youth, them, I make them survive. Give me independence, no stop me from strife. Work real hard to keep the music alive. He say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This are the freedom music, music. Independence music, music. He say, whoa, whoa. Freedom music, music, independence music, music. I beg you, free up, make me free up, free up. Beg you, free up, make me free up, free up. You say free up, make me real, free up. Beg you, free up, make me real, free up. Free up, free up, make me real, free up. I beg you, free up, make me real, free up. Free up, free up, make me real, free up. I beg you, free up. E allora cominciamo con le dirette di questa mattina. Come anticipavamo prima, ci spostiamo subito in quel di Cagliari. Abbiamo in collegamento con noi Nicolino. Ciao Nico, ci senti? Sì, ciao. Ciao. Ecco, allora, come dicevamo, questo venerdì scorso, all'interno della data dello sciopero generale, insomma, che c'è stato, avete occupato uno stabile... Un ex scuola media, ne avete fatto uno studentato occupato. E voglia di raccontarci un po' il percorso che vi ha portato all'occupazione, anche in generale come è andata la giornata? Allora, praticamente diciamo che l'occupazione nasce da due percorsi, anzi direi tre percorsi differenti che da tre mesi a questa parte si sono avuti dentro le facoltà, dentro le case dello studente e all'interno delle scuole superiori. Uno riguardava quello degli idonei non beneficiari, ovvero tutti coloro che hanno diritto alla borsa di studio ma non ci sono i fondi per erogarla. L'altro percorso era all'interno delle case dello studente, perché dovete sapere che all'interno delle case dello studente di Cagliari ci sono solamente 725 posti letto a fronte di una presenza di circa 15.000 studenti fuori sede. E oltretutto all'interno di queste case dello studente, queste poche case dello studente che esistono, ci sono dei problemi gravissimi, perché alcune sono dei veri e propri cantieri a cielo aperto e soprattutto la gestione dell'ente per il diritto allo studio non è mai stata né trasparente né partecipata. Il terzo e ultimo percorso che ci ha portato a questa occupazione è quello dell'assemblea delle scuole, ovvero un'assemblea spontanea che è nata dagli studenti medi, che raccoglie una decina di scuole superiori, che lamenta una totale lontananza delle istituzioni dalle loro questioni, come il caro trasporti, il caro libri e le strutture fatiscenti, perché dobbiamo ricordare che il liceo classico Dettori l'anno scorso è crollato in testa agli studenti, uno dei licei più importanti di Cagliari, che è una storia secolare quasi. E quindi diciamo che questi percorsi si sono uniti nel tempo, qualche settimana prima del 12 dicembre avevano un'ambizione, che era quella di ritrovarsi tutti insieme e cercare una via alternativa alle istituzioni per risolvere dei problemi e per riappropriarsi di bisogni che si sentivano, perché quello che si sente sempre di più all'interno dell'università e delle superiori è un usufruire di un servizio, non essere più parte integrante di quello di ciò di cui si vive quotidianamente, ma voler ritornare protagonisti all'interno della città e dei quartieri. Allora il 12 dicembre abbiamo creato uno spezzone autonomo e indipendente rispetto chiaramente a quello dei sindacati, sia studenteschi che dei sindacati dei lavoratori. È stato uno spezzone auto-organizzato nel giro di due settimane, che è stato partecipatissimo, c'erano circa 500 persone tra studenti medi, studenti universitari e anche precari, perché chiaramente c'è stato anche un dialogo con i precari di Cagliari e con i sindacati conflittuali. A un certo punto questo corteo, il nostro spezzone ha deviato rispetto al corteo e siamo andati a prenderci uno spazio abbandonato da diversi anni. Uno spazio che sta in un quartiere storico, in un quartiere centrale, che è quello di Castello. Uno spazio inserito all'interno di un quartiere che è gentrificato, ricordiamolo, attraverso ZTL e una politica di chiusura dei servizi primari al quartiere. E siamo andati lì e ci siamo ripresi questo posto e lo stiamo rimettendo a nuovo. È un posto che sta venendo frequentato giornalmente da centinaia e centinaia di persone. C'è stata una solidarietà incredibile, perché a Cagliari non è mai esistito uno studentato occupato e soprattutto non si fanno occupazioni da più di 10 anni. Quindi c'è stata un vivere questo posto incredibile. Si sono riformate delle reti, se ne stanno creando delle nuove e soprattutto si è avuta una solidarietà al quartiere che sinceramente non ci aspettavamo. Vi faccio un esempio, le nostre più prossime vicine sono le suore. Abbiamo avuto che parlare con le suore e invece di trovare un muro abbiamo trovato delle persone che ci hanno fatto i complimenti, perché il quartiere è morto, il quartiere gentrificato di Castello è morto e i giovani non sanno che cosa fare, a meno che non andare chiaramente in quartieri o in locali in cui si spende un sacco di soldi, ma per la gran parte della maggioranza degli abitanti più giovani di quel quartiere non c'è alcuna soluzione. Se vogliono soddisfare i loro propri bisogni primari, come andare alla posta o andare in palestra, devono per forza spostarsi da quartiere. Quindi Sadomu, che è il nome dello studentato occupato, nasce dagli studenti, per gli studenti, ma nasce anche con una vocazione che va al quartiere di Castello e a tutta la città di Cagliari. Ma senti Nico, avete avuto qualche dialogo con l'ERSU, con l'ente per il diritto allo studio a seguito dell'occupazione? Allora, il dialogo con le istituzioni diciamo che è nato nel peggiore dei modi, perché chiaramente noi dopo che siamo entrati hanno cercato subito di sgomberarci. Sono arrivati come al solito con tutta la Maradan di Celere, il gran giurì della Digos e compagnia cantante, hanno provato ad entrare con la forza, non ci sono riusciti. I compagni che stavano fuori hanno ricevuto un trattamento totalmente imparziale, diciamo, perché chiaramente un questore che vive in una città in cui non ci sono occupazioni da più di 10 anni, potete immaginare come l'abbia presa. Però chiaramente noi ne abbiamo resistito dentro, abbiamo trovato subito la solidarietà anche di qualche gruppo di solidari fuori, anche della solidarietà da qualche consigliere del Comune di Cagliari che ci ha raggiunto. C'erano gli avvocati che fortunatamente ci hanno dato una mano. e abbiamo avuto un primo dialogo appunto con il sindaco il giorno stesso, che è venuto e chiaramente ci ha raccontato un sacco di belle cose sugli spazi, sulle motivazioni, su quanto eravamo stati bravi. Un dialogo che poi si è spento praticamente ieri, perché abbiamo avuto anche dei colloqui con l'assessore regionale del diritto allo studio, con l'assessore comunale all'istruzione, col presidente dell'ERSU, che chiaramente ci hanno raccontato che abbiamo fatto benissimo, quel gesto estremo era condivisibile, tutto il resto però non potevano darci alcuna legittimità e quindi sono rimasti sul chi vive. Quindi noi chiaramente anche senza il loro appoggio pubblico e tutto il resto continueremo a stare dentro il Domu con tutte le persone che hanno partecipato in questi giorni, continueremo con le assemblee pubbliche e con tutti i laboratori che stanno partendo in questi giorni. E chiaramente se ci vorranno dare una qualche di legittimità o vorranno uscire pubblicamente, a noi sta bene, però non andremo sicuramente a chiederlo e continueremo con il nostro lavoro. Beh sì, sicuramente insomma di fronte a questo tipo di esperienze anche le istituzioni di riferimento si trovano un po' in difficoltà. Ricordo insomma il percorso della Prima Verdi 15 occupata, che per molti versi ricorda un po' il lavoro che avete fatto voi in questi mesi, era stato emblematico insomma dopo l'occupazione. Da un lato c'era stata la condanna dell'Edisu, però dall'altro alcuni ragazzi che poi erano arrivati chiedendo di poter partecipare a quell'esperienza avevano raccontato che i dipendenti dell'Edisu, nell'impossibilità appunto di dare delle risposte, li indirizzavano verso la Verdi, perché comunque lì avrebbero trovato un posto dove stare. Quindi sicuramente appunto questo tipo di esperienze li mette anche un po' in difficoltà, perché nel momento in cui appunto chi dovrebbe essere preposto a quello non riesce più a garantire i servizi essenziali per gli studenti, chiaramente queste esperienze di riappropriazione sono risposte insomma forti. Quindi niente, ci auguriamo che insomma il vostro lavoro possa proseguire nel migliore dei modi. Avete delle iniziative in programma per i prossimi giorni? Sì, allora questi giorni sono state aperte l'aula studio, stiamo aprendo la palestra, la cucina, quindi chiaramente tutti gli studenti che vogliono anche a pranzo spostarsi per venire allo studentato, noi prepariamo sicuramente da mangiare. Venerdì ci sarà un'assemblea cittadina, perché siamo entrati in contatto con diverse associazioni a cui gli spazi a Cagliari vengono negati, o associazioni che sono state sfrattate da poco dal comune di Cagliari perché non si potevano permettere l'affitto. Abbiamo deciso quindi di fare un'assemblea cittadina in modo che sia trasparente e pubblico ciò che facciamo, e in modo che tutti i cittadini di Cagliari abbiano l'opportunità di fare delle proposte. Quella è una data molto, molto a cui teniamo tanto. Invece domenica ci sarà un'apertura al quartiere, faremo la mattina un mercato all'interno del giardino di Sadomu, un mercato che si affiancherà con una ludoteca, quindi sia per i grandi che per i più piccoli, una grigliata per pranzo e poi un torneo di basket con DJ set la sera. Durante tutta la settimana ci saranno poi la proiezione delle partite, ricordiamo che giovedì c'è Cagliari Juve, quindi i Gobbi li conoscete bene. Durante tutta la settimana ci sarà un cineforum e incominceranno anche i laboratori di musica e i corsi di DJ set, e poi stasera ci sarà l'allenamento di calcio femminile nel campo da basket. Quindi diciamo un palinsesto pienissimo. Assolutamente. Stiamo portando avanti e ci sono tante persone che si stanno sbattendo e stanno prendendo un sacco di responsabilità, e questo ci fa veramente un sacco piacere. Va bene Nico, allora noi ti ringraziamo e qua dagli studi della radio vi auguriamo buona fortuna insomma per il futuro di questo studentato e questa settimana piena di iniziative. Grazie ancora e un saluto. Ciao Nico, a presto. Ciao Fra. Quando volete sapete che potete chiamarci in qualunque momento, noi rispondiamo sempre, microfoni aperti. Allora torneremo a sentirci. Ci risentiremo presto, intanto un in bocca al lupo da Torino. Ciao Nico, ciao. Allora, questo per quanto riguarda Cagliari. Per chi insomma volesse seguire l'attività dello studentato, rimandiamo alla pagina Facebook che è stata creata nei giorni scorsi, Sadomo Studentato Occupato Casteddu, dove appunto vengono postate di giorno in giorno le varie iniziative. Noi adesso vi lasciamo a un po' di musica, poi proseguiamo con la puntata. Ladies and gentlemen, just a word of warning. If any of you are not convinced that you have a tingle of your own, the next time you're frightened in the dark, check. Don't scream. If you wanna run hard and you wanna push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the bars, when the darkness in your heart and you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the bars, when the darkness in your heart. Don't scream. If you wanna run hard and you wanna push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. E al 346-667-3263 arriva insomma un incitamento per i compagni di Cagliari che scrive Casteddu spacca. Yeah, people say that traveling around the world is easy. Making sacrifices of reason is just pleasing. Sure as fuck as bonuses, the fancies I could dream. But with a gun to get home alone on the phone and the same. But believing is achieving, I believe that. Breathe that, see that. Demons on my heart, I always knew that. I would be a father to my daughter, no bullcrap. I don't give a fuck if you don't feel that. Go in your bag of chat. Live my life for one day, then come back. Don't be out your fill, out your habitat. Judgmental, whack, backstabbing, swats, know your facts first, but you get hurt. Well, that you want that, you did that. It's all about your tactics. So think first before you act drastic. The mic is smashing. It's the one that used to run the microphone fanatic. Who's that Chinese man? If you want to run hard, then you want to push hard. But there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, with the darkness in your heart, and you feel you lost your way. Don't scream. Run hard, you gotta push hard. But there's people standing in your way, try to stay. Don't scream when you're getting lost in the bars, when the dawn is in your bar. Don't scream. I'm like a buck, if you're thinking you can try and move me. I never scream, even when I watch a horror movie. Not from the Exorcist, soup deep. When breakfast is, we'll push a man right over the edge. Anyway, the message is simple. The message is actual. No time for no fiction. Let's keep it all factual. The first of a rap full. A bottle some case high. Help them escape life. They're screaming and can't lie. Don't scream. Face your fears. Fears gotta be faced. Nightmares get trampled. Things you gotta chase. I'm sipping on success. It's such a beautiful taste. Throwing away your life, it's not a beautiful waste. There's more to discover. Hear me, my brother. Reframe your picture. Hear me, my sister. Me, I'm unstoppable. I fly over brick walls. Music goes and I reply when the beat calls. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Don't scream. Don't even make a sound. Yeah, go hard, time to go in, cause giving it large. Man, I got them barrage of bass heads. Salute your paws. Stay on gas, stop and go hard. Bigger than them bars, you're spitting, you know what? Blast. Back in the day, trying to push through to the first place. Blaze in the face, bare times, I told her was waste. Every step I took to take turns into a long pace. I'm back in the day, ducking and diving with Jace Mace. Roll up to the front of the car, we did a move already strong. All the man down outside the raw side, who gonna be getting wrong? Don't wanna be getting it, but you guys are against you, just go chat and damn. That shit over, they ain't getting in, they're going home. She ain't happy, but nothing to us, they fall in back. Who got that? Taking all the ones that all the VIPs have. Moving it all, cause these fuckers, I mean, really fat. Drop off my coat, let me get in a hole in the moon, it's all that. Stepping through the masses of people, trying to get straight to the ball. Rock, why is it every time this shit's over the fucking hard? Banging push balls, leave them lost, sorry, bitch, I'm too damn lost. It's Mr. Microphone, abuser, leaving verbal scars. Across the dance floor, standing in DJ Wongo. Out to the MC, y'all, for the mic, you're screaming out, who wants more? Till the hands get raised, let me take your fingers, they're holding me here. Till the DJ moves to the track, and the ravers jump up in the air. You wanna run hard, if you wanna push hard. But these people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, with the darkness in your heart, and you feel you lost your way, don't scream. Run hard, you gotta push hard, but there's people standing in your way, try to stay calm. Don't scream. When you're getting lost in the past, with the darkness in your heart, don't scream, don't talk, don't up the, don't chat, don't panic, don't jump me, don't stop the dust, rap, hum, no script, better get grip, stay on the rhythm. and stay confident. Yep, double up on from here. Acapella, you can hear it clear. Missy flare, muscle flash, just like that when I turn up in a match. Power hour, shower flow. I don't stop when I'm lifting rows. Hands up, stand elevation. Back up, rewind, that's our celebration. Look at the room, we hurt the location. Look at the world, we hurt the whole nation. Two stars, two speeds, you star. Indeed, Chinese man, dynamite. That's the love for one line, I'm right. Yeah, man, heavyweight, fat man in the buffet. Heavy play, heavy day. Drama of the year, the globe, I circulate. Percolate, make it dance, bubble, call it under the green. So when I'm sober, under the leaves. Form on a mic, like under the leaves. Hard to believe, it's almost over. But before we move over, you gotta do it like the theme. But remember, don't scream. E questo? Modello Nexus 6. Artificial Kid. Data di emissione 2016. Modello da combattimento. Ottimale. Autosufficienza. Probabilmente il leader. Faccio lo stile che vorresti, ma non ci riesci. Vuoi chiamarmi brother, come di tutta Takeshi. Viaggio sopra un loop con i suoni per cui flash. I'm stealing, sei il mio, hai tranquillo, da cui non esci. Meglio che ricalcoli ogni mossa. Sei nella città perdita, questa è la zona rossa. Dite gli alfacciano che è meglio che si sposta. So cazzi, sì, oggi si esce. Il re, cazza grossa, dal futuro prossimo. Spingo per il massimo, con un suono ostico. Dall'effetto caustico, mastico e trito carne. Collezione a trito, sotto gli intenti, qui non ho ancora finito. Mando segnali come luci nella nebbia. Sapipo di nascosti nella sabbia. Anticorpi in terra infetta. Tocca poi in fretta. Armatura come mura. Perché tutta sta cultura sia protetta. Ah, il lume passa e ce lo sai. Quando calo giù e attacco in massa. Combattenti dai. Stringo i denti e vai. Sia l'inizio della fine. Quattro comandi. Motori caldi. Giù nel vuoto scancio mine. E lancio rime. Non ci si arrende. Non surrender. Meteoriti in su. Scuri alla defender. Poco l'occhio il ferro tender. Sì, ma l'arsenale che fa muovere. La testa di Xbox, Hyper Cube Rex, Duralex, Neblex. Oggi sono di caccia T-Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. Sì, e adesso siete tutti quanti avvisati. Hyper Cube Rex, Duralex, Neblex. Oggi sono di caccia T-Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. Sì, e adesso siete tutti quanti avvisati. E qui saremo sempre come tre, mai pari. Hai la testa dura, io ho testate nucleari. E rime ognuna da 21 grammi. Quindi, oh mami, oh. A cani, oh è meglio che te vai, che io sarò lo spirito santo, l'angelo della vendetta, la spina nel fianco, uccidi pure un mio, e che i miei ne risorgono altri quattro, che ci fanno il culo come un quadro astratto, questo mondo è sfatto, ed è retta solo ai matti, oggi che anche più facciani giocano ai coatti, tutti i gaggi cerca di ingaggi, e ti lingotti, sì, ma c'ho quello che mi serve, per proprio fai, botti, chiuso a botte quando scendo, barcato, con rap car armato, io parto e distruggo. E sei nel mio tracciato, eri stato avvisato, tiro questo è toro scatenato, elevato al cubo. Hyper Cube Rex, Duralex, Neblex. Oggi sono di caccia T-Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. E adesso siete tutti quanti avvisati. Hyper Cube Rex, Duralex, Neblex. Oggi sono di caccia T-Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. E adesso siete tutti quanti avvisati. Allora vi lasciamo ancora un pezzo musicale, stiamo cercando di trovare qualche contatto rispetto alla sentenza di domani, tra pochissimo torniamo in diretta. GDP, noi lo famo così, au, GDP, Insta, capì, non è così che lo famo e stiamo ancora qui, sì, noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo, questa vita non cambia, si cambia ogni giorno, troppe cose che non cambiano il mondo, e noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo, c'è nasco, c'è cresco, c'è sudo e c'è resto, io sono ancora qui come Vasco, fisso, cambiano le facce ma non cambia il contesto, adesso chi lascia braccia resta impresso e no, se dimentica presto. GDB dal basso di una Roma pronta al collasso. Direzione fascio dove ho combatto, ma cascio e piove merda, ma me ne sbatto. Ciò che è mio lo stringo e non lascio. Cazzari, beviscio, fate pure il vostro gioco sperando che vada liscio. Se chi c'ho nel cuore resta, vuol dire che mo la strada è quella giusta. Forza e testa, con la scorza d'osta qua tutto costa, sia che sposta o non sposta. Penisola italica nostra, io vengo e porto i fatti di sta cazzo dei giostra. È GDB, Nista, capi, non è così che lo famo e famo ancora qui. Noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo. Questa vita non cambia, si cambia ogni giorno, troppe cose che non cambiano il mondo. E noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo. E lo famo ancora qui e lo famo ancora così. Noi ci stiamo e se stai a venire, se beccamo lizzi, così realizzi quello che succede da sti tizi. Non c'è se crede ma c'è credi che inizi. È una cacciara pazzesca, da paura costa azzurra, GDB rinfresca. Mettitelo in testa, è così e non cambia. La mia banda protesta e che Dio ce la cresca. A mani nude in questa giungla di cemento combatto, lotto e aspetto che giunga il momento. È regolare, lo capisci l'accento. Questo è il movimento, a Roma siamo un monumento. Dal campetto al baretto al muretto qua sotto, già ce lo sai, te l'hanno detto da un botto. E noi capimo sul fondo, la mia gente tiene duro e grida vaffanculo al mondo. È GDB, Nista, capi, non è così che lo famo e stiamo ancora qui. Noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo. Questa vita non cambia, si cambia ogni giorno, troppe cose che non cambiano il mondo. E noi capimo ciò che dimo sul fondo e lo dimo a testa alta che venimo dal fondo. A testa alta, luna scarpa e una ciabatta, gente de borgata e basta, passa il tempo ma non cambia faccia. Giusto per essere chiari, rappo come parlo quando sto giù al bar, non faccio distinzioni, qua non fammi strani. GDB, anti VIP, se te cerchi roba chic non cercarla qui. Rappresento quel cialetto che hai già visto su quel petto, dentro al video ondo de dico, de dimentica se retto. Non sono cresciuto dentro casa con la tata, stavo giù per strada col pallone, a noi quel poco ci passava. Per fa la vita meno amara, Marco Lizzo in sala, poi metto prima la realtà e non l'ho mai cambiata. Pronto al tracollo ma preferirei evitarlo, quello di cui parla se è severi in mezzo al mondo falso. E tu vedi tre lettere già sai che qua è così. È GDP, Nista, capi? Ah sì, gente del Borgata, lo famo così, siamo ancora qui, rimarrà così, ormai siamo una certa età, e non penso che cambieremo, quindi se vuoi va bene, per no ciccia, c'è un sacco di rap, Allora, dalle libere frequenze di Blackout rinnoviamo i nostri saluti ai compagni e alle compagne che sono a Palazzo Nuovo, e in realtà le avevamo già fatti i saluti ma forse si sono sintonizzati tardi. Comunque cogliamo l'invito, insomma, che ci viene fatto da Palazzo Nuovo, e invitiamo tutti a passare alla super colazione che hanno preparato in atrio. E come avevamo invece annunciato in apertura, tra pochissimo andremo a collegarci con una crew di Bergamo, che è una crew nata da qualche anno che si occupa di hip hop militante. Ci faremo raccontare la loro esperienza. Nel frattempo, mentre prepariamo la diretta, vi lasciamo un primo loro pezzo, poi ci faremo spiegare tutto meglio tra pochissimo. Tu sei uno schiavo, come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non sbarre, che non allunga, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Tra i crepuscoli sulla soglia della notte, crepuscoli in vivo, sull'oscurità. Fragili calotti in balia delle onde, entità corrotte, figlie di una triste vanità. Assorbiti da tempo, imprigionati nel circuito, frutto d'acuità e nutrimento, l'eden del profitto. Ognuno al proprio posto, al proprio costo, e a tutti sta tutto. Di restare nel recinto non esistono malati, gioia o sofferenza, non si muore, non si cresce, niente si rifiuta, niente si pretende. Il sistema è l'unico potere che decreta il male e il bene, il solo le bufere, non si esce dal tragitto, non esiste un eletto, ogni singolo compito va represso nel silenzio, e tutto intorno una realtà fatta d'arte, un mondo creato da vent'anni a questa parte. E ai nostri potere ci vuole semplice pezzo di passire. Tutto occupa una sua particolare posizione. Questa vita, questa è la realtà. Se qui è chiusa del sistema. Yo, se voglio, mi sveglio ma non voglio, insomma il crollo, ma qualcuno mi sussurra, resta sveglio, sopra un cielo spoglio, piedi strada e dell'imbroglio, dove un crede masticato da chi merita veleno, mi aggiro fra astinenze, nuove droghe incriminate, la sirena e il coprifuoco sotto stelle spappolate, grattacieli senza fondamenta, urla dall'entroterra, ci vibra il corpo immenso, fra discorsi a luce spenta, abbiamo perso l'efficiente, il cuore dal di dentro, una colata del migliore assente, brucia ma non penso, i libri di filosofia tra fiamme a fuoco lento, il Dio che prima stava muto la si ascolta stento, sento sbattere le porte dove c'è chi non demorde, la pazzia contaminato, la legge del più forte, lo scenario apocalittico e ha svelato le sue carte, questo è il mondo che io vedo da vent'anni a questa parte. Forse siamo troppo tempo. Dentro, per essere obiettivi. La nostra persona non merita di essere eliminata. Dannato sarà il suolo, per causa nostra. Una copiosa quantità di spine esso produrrà per noi. Poiché siamo stati creati dalla polvere, alla polvere ritorneremo. Cosa facciamo qui? Siamo solo scimmie, avvolte in dei vestiti, che implorano l'approvazione degli altri. Non avevo idea di cosa fosse. Avevamo più di quanto ci servisse. Buttavamo via cose per le quali la gente adesso si ammazza. Se lo sapessimo non ci comporteremmo così. 11:50, torniamo in diretta con Parole Ribelli. Come vi avevamo annunciato pochi minuti fa, abbiamo a questi microfoni Alex di Sten MK2. Intanto, ecco, no, direi che abbiamo perso la linea, quindi lo richiamiamo subito e torniamo in diretta. La bandiera nera, la punto con le casse rotte e gira anche stasera, porto notizie pessime per certe che si spera, se c'è voglia di rivolta, beh, si odegra l'atmosfera, giù da Roma chi mi segue mi capisce al volo, il 5 sopra il palco ma combatti come un uomo solo, credici se dico che mi muovo nella stanza dei cristalli della scena belli, adesso è stato un toro, non mi fermi più se parto sulla strumentale, non ti faccio male, giù da solo già lo fai male, tu fai come te pare, non me faccio troppe pare, quando inizi a rappare sai che il pubblico scompare, troppi giro senza meriti, come te che predichi, fatti come in tribunale, previti, ancora che mi cerchi per leccarmi il culo, levati, cammina a testa alta, io col mondo non c'ho debiti, non c'ho debiti con niente e con nessuno, io, tutto quello che possiede è solamente mio. Allora 105.250, sempre all'ascolto di Parole Ribelli, adesso dovremmo aver recuperato il collegamento con Alex, ciao Alex, ciao. Ci senti? Sì, mi sento. Ecco, allora un saluto, benvenuto su queste frequenze. Con te appunto vorremmo farci raccontare un po' di questa esperienza, di questa crew Sten MK2. Insomma, qui a Parole Ribelli abbiamo già più volte dedicato spazio, insomma, a progetti di musica indipendente per dare appunto insomma anche voce a quello che si muove non solo nel mondo dell'hip hop, ma insomma più in generale a livello così culturale. Niente, ti lascio la parola per raccontarci come nasce il vostro progetto, poi magari più avanti ci racconti anche quali progetti avete in cantiere. Ok, va bene. Noi siamo, Sten MK2 è una crew di Bergamo che nasce nel 2011. Diciamo che già ai tempi per noi l'idea è sempre stata un po' quella di narrare, cioè, ciò che ci stava attorno. Cioè, all'inizio rappavamo su problemi un po' del mondo, la fame, guerre e sicuramente l'avvicinamento alle lotte. La prima, quella degli studenti medi. E successivamente poi quella sull'abitare della casa è servito, diciamo, a ritarare il nostro suono e il nostro linguaggio. Infatti, diciamo, il nostro primo disco in prima linea parla un po' proprio di questo, cioè nel senso le nostre tracce, diciamo, cercano di narrare le lotte tutte legate da un filo conduttore che è un po' la speranza e il fatto che alle leggi, cioè nel fatto che comunque noi mettiamo avanti prima le persone che sono quelle che si devono, diciamo, ribellare. Infatti in prima linea è un po' questo, cioè cercare di incitare al incitare la gente un po' a, diciamo, a non farti sottomettere dalle leggi del mercato e del profitto, ma mettere avanti, diciamo, le lotte dal basso e le persone. Sì, quindi diciamo che nasce da subito appunto come progetto di pop militante, proprio da questo, esatto, intreccio, dalle lotte cittadine che poi, esatto, possono essere amplificate, diciamo, tramite lo strumento della musica. Della musica, sì, sì. Quindi potremmo dire che in un certo senso, insomma, la vostra idea è anche un po' di guardare all'hip hop anche, insomma, come forma di aggregazione, non semplicemente, diciamo, come prodotto esatto, musicale. Esatto, diria, sì, è un po' questo. Infatti, cioè, nel senso, infatti noi, diciamo, i nostri progetti futuri riguardano un po' questo, cioè, nel senso, noi stiamo creando una posta musicale formata da quattro crew, o meglio, cioè due MCs, una di writers, una di produttori e DJ, tutto in punto legato dal fatto che, cioè, legato innanzitutto dall'hip hop conscious, e con l'obiettivo di dare risalto alle lotte. Diciamo che vogliamo un po' creare una specie di CNN, però della strada, dal basso. Soprattutto per, diciamo, parlare di momenti importanti come potevano essere stati il 12 dicembre o il 14 novembre. Ok, allora Alex, magari ci ascoltiamo un vostro pezzo, che è proprio quello che dà il titolo al vostro album, In prima linea. Ci hai già spiegato, sì, insomma, un po' qual è, diciamo, lo spirito che sta dietro a questo pezzo, quindi ce lo ascoltiamo e poi torniamo in diretta. Va bene. Allora, in prima linea il messaggio che arriva chiaro da questo pezzo. Alex, sei ancora qui con noi? Sì, sì. Ok. Allora, hai voglia, insomma, di raccontarci un po' meglio quali sono i progetti futuri, adesso che ci hai spiegato un po' qual è lo spirito che sta dietro a questa crew? Scusa, c'è un po' di eco, tu ci senti bene? Sì, aspetta, faccio un po' di fatica anch'io. Aspetta. Sì, ci sono. Ok, perfetto. Sì, no, l'idea, vabbè, soprattutto di portare un rap dal basso negli spazi e di riuscire, diciamo, a tornare un po' più alle radici un po' più umili dell'hip hop, cioè cominciare magari a organizzare, come non so, si faceva negli anni 90, block party e poi successivamente magari, cioè in block party immagino nei quartieri, tornando proprio, cioè, a parlare proprio di hip hop all'interno delle strade e narrando, cioè portando avanti, cioè, determinati contenuti. E l'idea, c'è, cioè, più che altro, poi vabbè, noi adesso stiamo lavorando a un progetto futuro, nel senso di riuscire a fare una specie di studio di registrazione a Cittadina, che praticamente è un quartiere, cioè un quartiere dove il Comitato di Lotta per la Casa ha occupato una palazzina e l'hanno ridata alle famiglie, e lì nel quartiere loro sono riusciti a creare un bel giro. Di conseguenza ci sono un sacco di ragazzini che sono appassionati per questa musica. La nostra idea è proprio di dire, cioè, nel senso, creiamogli un'opportunità, perché anche l'hip hop è un po' questo, cioè ti dà la possibilità di fare musica veloce e raccontare con forza i tuoi contenuti. Bene, senti, hai voglia magari di darci qualche contatto, qualche riferimento per chi volesse, insomma, ascoltare meglio il vostro progetto? Sì, vabbè, c'è la pagina in Facebook, StenMK2, e poi ci abbiamo anche il profilo. Per adesso non siamo ancora riusciti a fare il sito, però lo faremo più presto. E da lì si trovano i link e comunque anche su YouTube siamo presenti. Va bene, allora Alex, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, speriamo ci sia occasione di risentirci in futuro per, insomma, continuare a raccontarci del vostro progetto. Noi rimandiamo, come hai già fatto tu, alla pagina Facebook, dove si trova anche il link per il free download del vostro CD, e niente, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. A presto, ciao. Ciao. Allora, sì, c'erano un po' di problemi, insomma, con la diretta adesso, se si sentiva un eco abbastanza fastidiosa. Speriamo comunque che, insomma, si sia riuscito a capire tutto quanto. Vi lasciamo ancora un pezzo degli MK2, questa è Strade, i pezzi che abbiamo ascoltato prima invece erano Matrix e In Prima Linea. Buon ascolto, tra poco poi torneremo in diretta. strade, fatale in mezzo al fumo, la nebbia, amore o guerra, terra d'asfalto, pietra, strade, dove sempre paga chi sbaglia, e l'invidia ti inganna, trasformandoti in canaglia, strade, fatale in mezzo al fumo, la nebbia, amore o guerra, terra d'asfalto, pietra. Io ci ho provato, ho messo tutto quanto, ciò che avevo il mio potere, per chi portavo accanto lo stato, picchiato sto destino, infame e scalto, che non voleva rispondere, per ciò che aveva fatto, ho cercato troppe volte le risposte a questa vita, ancora ora sono al punto che non so chi sono, la tua eremita fra esperienze, guide, grida soffocate, tra la colpa quotidiana e ricercare sempre il perdono, ho l'idea della mente che domina il corpo, ma col tempo ho capito che questo non preclude, no, lo sforzo di contrarre tutti i muscoli del corpo, perché aspettare senza agire rende nave senza posto, lacrime, voragine, il libro della vita, la cicuta sopra i bordi delle pagine, e tu frantumo ogni mio dubbio, ho sede di sapere, perché sotto questa buccia c'è chi crede ma non vede. Allora, 12:07, questa era Strade degli Sten MK2, adesso vi lasciamo ancora un pezzo, poi siamo riusciti a recuperare il contatto dell'avvocato Losco del Legal Team Notav, e quindi andremo a farci, insomma, dare un breve commento in vista di domani, rinnovando la solidarietà a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, e ricordando l'appuntamento della sera a Bussoleno. West che l'infame oceano di menzogne che vogliono farci ingoiare mediaticamente. La punta con le casse rotte c'è la fiesta sera, porto notizie pessime per certe che ci spera, se c'è voglia di rivolta e beh, si addecra l'atmosfera. Giù da Roma chi mi segue mi capisce al volo, il 5 sopra il palco ma combatti come un uomo solo. Credici se dico che mi muovo nella stanza dei cristalli della scena belli ed è stato un toro. Non mi fermi più se parto sulla strumentale, non ti faccio male, tu da solo già lo fai male. Tu fai come te pare, non mi faccio troppe pare, quando inizi a raffare sai che il pubblico scompare. Troppi in giro senza meriti, come te che predichi, fatti come in tribunale previti, ancora che mi cerchi per leccarmi il culo, levati, cammina a testa alta, io col mondo non c'ho debiti, non c'ho debiti, dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta, non c'ho debiti, dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta, giusto è quello forte di turno, io tiro con la punto, cornucci, punto, calo studio col bazooka ma non c'ho un lavoro, suono la mattina in bocca c'ho l'amaro, non l'oro, mi faccio i film in testa e non solo, giro con una banda che spacca le casse al volo, è broken speaker, si sente se dirti qualche cosa, è qualcuno che sta in fissa da sempre, quando il pugna è il microfono, fa scendere dal gradino più su se ci stai comodo, siamo fianco a fianco per ogni sgarro, se famo famo chiaro, se non manco te parlo, manco te guardo se oltrepassi la linea, rispetto se guadagna, non basta la stima, lascio una perla di saggezza per voi, non se siete forti, ma se siete forti siete come noi, non so te vi dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta, non so te vi dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta, io non ho te vi dico niente con nessuno, per questo quando entro non ce n'è per nessuno, la metto giù giuro, per l'uno contro uno, sicuro che ti servirà l'aiuto di qualcuno, chi? Io sono qui, tu lo sai bene che ci sono, quanto la bandiera suona, il mio suono accende il fuoco, è la tempesta che arriva, la tua testa alla deriva, è lì la funesta che accende la festa, e questa è l'atmosfera, è la bandiera nera, le corna in aria stanno in alto anche stasera, vorrei avere un carro armato, entrare dritto in Parlamento sopra al capo dello Stato, per quello che hanno promesso e non ci hanno dato, perché se non combatti in questa vita sei spacciato, e io ho staccato tutto quello che potevo, ti guardo dentro gli occhi tutto a posto, non è vero. Non so se vi dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta, non so se vi dico niente con nessuno io, tutto quello che possiede è solamente mio, tiro fino la festa, e quando vedi sventolare la bandiera sul palco è tempesta. Allora, 12:10, continuiamo con le nostre dirette di questa giornata. Come dicevamo prima, insomma, domani 17 dicembre è attesa la sentenza per Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, i quattro compagni in carcere da oltre un anno, dal 9 dicembre dell'anno scorso, con l'accusa di terrorismo, un'accusa già smentita peraltro dalla Cassazione nel giugno scorso, ma che insomma è stato un po' il vero fiore all'occhiello della crociata della Procura di Torino contro il movimento Notav, tant'è che è stata riproposta nei confronti di altri tre compagni, di Lucio, Graziano e Francesco, anch'essi in carcere, lo ricordiamo, da luglio di quest'anno. E allora per questo processo insomma abbiamo in collegamento con noi un avvocato del legal team Notav, l'avvocato Losco, che intanto salutiamo e le chiediamo se ci sente. Buongiorno. Vincenzo, ecco. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, ecco, allora ha voglia di insomma farci un po' un commento sull'andamento del processo e insomma sulle prospettive per domani. Allora, domani, come è già stato detto, ci sarà la sentenza relativa a quell'assalto al cantiere del 13-14 maggio del 2013, per il quale è stato contestato a Chiara, Mattia, Nicolò e Claudio l'attentato alla vita con finalità di terrorismo. Quindi la prima volta che per un episodio di opposizione al cantiere, una lotta sul territorio, è stata contestata una finalità di terrorismo. Come è stato detto prima, questa finalità di terrorismo è stata già smentita nel maggio di quest'anno dalla sentenza di Cassazione, che ritenuto che allo stato degli atti non era possibile ritenere sussistere questa finalità. Nonostante questo, il procedimento è continuato per quel titolo di reato, tanto che i pubblici ministeri hanno concluso la loro discussione chiedendo una condanna per quel reato, seppur un po' ridimensionato, perché hanno concluso chiedendo ricostruendolo come attentato all'incolumità fisica, non più attentato alla vita, sempre però con una finalità di terrorismo, chiedendo comunque una pena piuttosto alta, molto alta, una condanna, hanno chiesto una condanna finale a quasi 10 anni di carcere, 9 anni e 6 mesi. Ecco, come hai detto prima, nonostante questo, nonostante il precedente della Cassazione è stata nuovamente contestata anche agli altri 3 ragazzi che sono stati arrestati successivamente, perché identificati successivamente nel corso delle indagini, è stato anche a loro ricontestato questo attentato alla vita con finalità di terrorismo. Ma ovviamente non voglio fare previsioni, quello che posso dire è che nel corso del dibattimento questa difesa, ma anche insieme agli altri difensori, abbiamo cercato di smontare questo impianto accusatorio, soprattutto in relazione a quell'accusa di terrorismo. L'abbiamo, secondo noi, abbiamo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati, abbiamo dimostrato che questo attentato alla vita con finalità di terrorismo non sussiste sia sotto un profilo oggettivo che è soggettivo, perché sicuramente la volontà di chi ha agito quella sera non era di fare male a nessuno, come tra l'altro emerge chiaramente dal tenore di una intercettazione ambientale, ma era quello solo di colpire dei beni che erano presenti al cantiere, il famoso sabotaggio che poi è stato anche ricordato nelle stesse parole degli imputati nel corso del dibattimento. Va bene, allora grazie avvocato, direi che è stato più che esaustivo. E noi la salutiamo dai microfoni della radio, ci risentiremo per aggiornamenti nel caso domani in giornata. Va bene, grazie, salve, buona giornata. Salve. Ed ecco, allora ci sono state già diverse iniziative in solidarietà per i 4 in attesa di questa sentenza. Ricordiamo che domani appunto c'è insomma, apriamo l'invito a tutti a fare presenza insomma nell'aula bunker durante l'udienza nel carcere Lorusso Cutugno delle Vallette, mentre dalle 17:30 c'è un appuntamento a Bussoleno in Piazza del Mercato per insomma aspettare un po' l'esito dell'udienza tutti insieme e poi organizzarsi, ecco. Sì, ovviamente ci auguriamo che questa sentenza di primo grado possa risolversi nel migliore dei modi per i 4 compagni. In ogni caso la Valsusa appunto si è preparata a dare una risposta efficace di lotta subito per insomma far sentire, come ha fatto durante tutto questo anno, la propria vicinanza a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò. Quindi sicuramente rinnoviamo l'invito a essere presenti la mattina in aula, ma soprattutto la sera a Bussoleno. Tra l'altro questa mattina c'è stata un'iniziativa insomma per tenere un po' alta l'attenzione rispetto alla sentenza di domani. Sono stati fermati 2 convogli ad alta velocità, uno il Venezia Parigi e l'altro la linea Torino Milano. C'è stato un blocco appunto sui binari di Vercelli questa mattina presto, che ha bloccato insomma per più di un'ora la circolazione. Ovviamente appunto il rimando era alla sentenza di domani con la solidarietà ai 4 imputati. Un'iniziativa simile è stata fatta anche domenica a Roma, sempre con il treno Italo ad alta velocità. Quindi appunto teniamo bene gli occhi aperti in vista di domani e insomma ancora un abbraccio a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò. Noi adesso vi lasciamo ancora un po' di musica, poi ci avviamo verso la conclusione della puntata, andando a ricordare come sempre un po' di appuntamenti dei prossimi giorni. Quando gira mi significa stare bene, non ce n'è. O vi con la bottigliella tarandelle ta manera, piglio vuole scarta, a wheel scarto, bob in carta, o cagno reparta, se bota marice una paro cazzo, facendo da fessa, a buivo scassa, o saccio capo facito cessa, ma quando batta canzone parantone seria, sangue mostra rapa dove dall'arteria. Siete come solo parabona, ma tu vomatona. Parabona. Siente come sono parabona, ma tu matona. Angulo. Siente come sono parabona, ma tu matona. Solare. Siente come sono parabona, ma tu matona. Magari. Ma che re, onnandì, mille per mille sangue mostro, quando a dita gira capo, tanti a rapa giostra, che schia stagione buona, fa coltivazione, visto che fai me stai perrona, mi sta metadona, sto paro vero, ma con sicuro fa paurinto scuro, trova una cura, giova frittura, cazzo pernuti, casci fasciatura, si separea, è roba mia, tu lavi piatte ricchi a tuna, e pure taccarea, e non mi pogno, non mi piglia, non mi offrivi in tatiello, fumo sullo spagnello, coperto rin- la cervella già squagliata, bruciata, oramai dissossata. O fede asciata, stata pignorata. L'amico già sta in tuo spazio, si è rubata un'astronave. Ma prima di tutto usci, ma a casa chiava. Sanghiamo tutti i graffe e siente carro vuoto. Cacciamo fuori un tipo, tu fatta rota. Siente come sono parabona, ma globo mattona. Parabona. Siente come sono parabona, ma globo mattona. Angulo. Siente come sono parabona, ma globo mattona. Solare. Siente come sono parabona, ma globo mattona. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci metriche, in carenza tra le peggio crisi isteriche, cambi di personalità, pigliata una pastiglia, levata sta parrucca, una lucca, puzzi di lacca e baccalà, o pesce in mocca come lecca lecca, una mucca pazza fan di caparezza, l'ultima cicca, un pirla di razza che si attrezza sulla tazza e si impicca, e non è non è. Mo la tua posizione è un piccio a mollo nella mia nazione. Culo fisso in mestruazione, il tempo è ciclico sul beat, 10 sacchi smin. Mette il tuo valore, solo 10 sacchi smin. Porta la tua muffa a neffa e abracadabra. Se ti aggiungi un po' di stoffa, cambi maglia come Ibra, mentre applaudi fibra. Mo fatela sta sega col Viagra e passatela allegra. Non ce n'è, inutile che neghi. E ci arriva un messaggio al 346-66-73-263, un radioascoltatore, una radioascoltatrice che commenta la diretta che abbiamo fatto prima dicendoci che in questo processo farsa c'è solo un attentatore, lo Stato, che attenta la libertà di chi contesta. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Ufu, vale, guardi mia carina a mano. Mandala. ancora in piedi nonostante le cose fatte. In questo mondo sopravvivi se non ne fai parte. Valigie pronte, lascio tutto come prima. L'insonnia nella notte, la mancanza di ogni alternativa. Ci hanno vietato la stima ed il buon umore. Piove sempre adesso, troppo tempo a disposizione perso. Troppi discorsi inutili e troppe parole. Promettono qualcosa che non ti sarà concesso. Qui niente di nuovo, il mio bicchiere è vuoto. Ci versano illusione, ci ubriachiamo col demonio. Tecnologia va schiavi, tu l'industria fa il suo gioco. Ipnotizzati alla TV e di social come posto di ritrovo. Noi dimenticati, morti ogni giorno e poi resuscitati. Proviamo noia nell'avere un posto fisso. Tu prova a immaginarti come siamo da ste parti. Uccidono il paese ma poi cantano il suo inno. Siamo la gente da evitare. Il cancro di un sistema cresciuto nel malaffare. Soldati ammutinati, gli eresimi innocenti processati. Emarginati, gli ultimi tra i dimenticati. Siamo la gente da evitare. Il cancro di un sistema cresciuto nel malaffare. Soldati ammutinati, noi gli ennesimi innocenti processati. Emarginati, gli ultimi tra i dimenticati. Ancora in piedi ma dimenticati. Costretti a credere in qualcosa che non vedi. Ostaggi del paese, nati liberi e cresciuti schiavi. Mentalità di merda in cui fare del bene non dà risultati. Siamo costretti a fare sbagli. Loro sanno cosa compri, quanto guadagni. A fine mese non tornano i conti tra spese ed affanni. Il crollo delle imprese e la pensione a 70 anni. Tocca stare attenti. Qua tocchi il fondo, sciocchi le tue carte. Ma in questo mondo ci hanno dato un ruolo da comparse. Mi guardo intorno e vedo maschere cambiare in ogni istante. L'unica scelta è di scappare via per sempre. Lontano da sta gente, vuote e disonesta. Disinteressati finché non toccano la loro fetta. Mossi dai fili senza una speranza certa. Ma quando ti ritroppa alla fine tutto si spezza. Siamo la gente da evitare. Il cancro di un sistema cresciuto nel malaffare. Soldati ammutinati, gli ennesimi innocenti processati. Emarginati, gli ultimi tra i dimenticati. Siamo la gente da evitare. Il cancro di un sistema cresciuto nel malaffare. Soldati ammutinati, noi gli ennesimi innocenti processati. Emarginati, gli ultimi tra i dimenticati. Contro il potere che ci vuole schiavi. Per il 2013, il Livio, DJ Apoc, tra i dimenticati. Allora, 12:25, come dicevamo poco fa, andiamo a ricordare gli appuntamenti dei prossimi giorni. Sì, cominciamo da stasera, martedì 16 dicembre, ore 21, all'asilo occupato di Viale Sandria 12, Pizzata Benefit, arrestati in OTAV con il forno itinerante autoprodotto dal Barocchio. Nel frattempo facciamo un cambio di sonorità abbastanza netto. E passiamo alla giornata di domani, mercoledì 17 dicembre. Oltre ai già ricordati appuntamenti Notav, per chi invece rimane a Torino, la sera al campus Luigi Einaudi, un appuntamento per discutere di quanto sta avvenendo in Burkina Faso. Ci sarà un dibattito con alcuni docenti dell'Università di Torino, in particolare Roberto Beneduce, che insegna antropologia qua al campus, e sarà presente anche Bertin Nonza, presidente dell'associazione Mosaico. Si discuterà appunto degli ultimi avvenimenti del Burkina Faso, per capire anche quanto la figura di Thomas Sankara sia ancora cruciale, insomma, anche nel muovere appunto quelle ultime rivolte. Insomma, dopo il dibattito ci sarà un aperitivo e verrà proiettato il documentario su Thomas Sankara, Quel giorno uccisero la felicità. L'appuntamento è per le 18:30 all'aula C1 occupata del campus Luigi Einaudi. Ricordiamo che la cena Bella Vita del Mezcal, che era prevista per domani sera, è stata annullata per la sentenza di Chiara, Mattia, Nico e Claudio, iniziative annesse, sempre Notav. Invece arriviamo a giovedì 18 dicembre, tornano le serate del terzo piano biblioteca autogestita, ultimo appuntamento prima della chiusura per la pausa natalizia. Ci sarà insomma serata ricca di appuntamenti, alle 18.30 si inizierà con una performance teatrale a cura del gruppo Asia Riot, che proporrà una riflessione di immagini e corpi sull'abolizione dei sessi, insomma una performance provocatoria a seguito della quale ci sarà poi appunto un dibattito sui temi proposti da Asia Riot. E dalle 21 sempre al terzo piano a Pericena. E a seguire concerti con Rancore Punk Militante, NN Punk Agricolo, MC Caserio Rap Anarchico. A seguire Residence DJ Set. Come sempre, per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina Facebook Terzo Piano Biblioteca Autogestita, per quanto riguarda lo spettacolo anche al profilo del laboratorio Sguardi Sui Generis. E nel frattempo, con perfetta insomma puntualità, si è concluso anche il pezzo. Vi lasciamo ancora a un brano, poi andiamo a concludere la puntata. Welcome home, comrades. Welcome home. Welcome home, Marshall Eddie Conway. Welcome home, Studiata Agoni. Take your sacrifice. Welcome home, sacrifice. Take your sacrifice. Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Take your sacrifice. I live for today, no time to play, ain't got no time for no games. Remember the song, when I'm dead and I'm gone, bury me dead in the flames. Make them remember your name, staking your claim in this lifetime. Nothing to lose, everything to gain. And it's rightfully mine, Masuda Shakur opened the door and took me up under his wing. I sat at a table, drank from the ladle, now I got something to bring. Salute to the youth that walk with the truth, I'm ready to give their stripes. You never too young, remember the hungers, now they give it a stripes. Bobby Hutton, yeah, Bobby Hutton, I say it again and again. First to join, first to die, independent from self-defense. 15 years old, the brother was cold, he had the heart of 1,000 men. Hung with his name, I think about him when I train, so now we gon' win. Fred said, don't never be scared, cause you too young to die. Cause you feel you already did, now just paralyzed. Don't tell me your destiny, take the future into your hands. If anyone can do it, then you can. Take your sacrifice. Take your sacrifice. Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Take your sacrifice. Take your sacrifice. Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. It's so serious, yeah. It's so serious. Emergency is cardiac arrest. If you thuggin', then you better wear a vest. This is the reality. It's your test. Twine and Maya set him on fire. He was down with the BLA. He was 16 when he picked his team and sacrifice was made. When I say sacrifice, I don't mean to do nothing stupid. Participation is the best education, take you in Newton. Scared money don't make no money, that's what they say in them streets. And victory is so sweet versus the agony of defeat. I'd rather die on my knees and live as a coward up in the streets. And oh, dying, let's stop dying. If you with it, then let's get free. The youth brigade, ever so brave, never get left to the slaughter. The next to change your future, we the best of the sons and daughters. My back to the wind, my feet to the ground. I'm putting it down for my crown. But not no colony. Fuck with my philosophy. That's what I'm about. I learned from the Palestinians and the Mexican EZLN. The government that's down with imperialism can't be your friend. They bad with politicians saying show me the Benjamins. But I'm throwing up RBG until the end. Take your sacrifice. Take your sacrifice. Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Take your sacrifice. Take your sacrifice. Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Do this for my jewel and my gem. Those are my daughters, I do it for them. I did it before and I do it again. I sacrifice again and again. Everything I have and own through them, my legacy lives on. For every day a child is born, a soul is taken, passing on. Sacrifice is sacrifice. Life is like coal and ice. I give my last bag of rice. Cause you will not starve tonight. You will not die of hunger. All my life put me under the jail. Lose the key like George Jackson did for me, Troy Davis. I'm Troy Davis, I say it again and again. He was murdered on death row like many innocent men. When I say innocent, I mean innocent, never proven too much doubt. When they can't take your dignity, they're trying to take you out. I offer the sacrifice of blood, food, and rum, and need me through to all the dead till the ceremony's done. Jonathan Jackson, Lolita LeBron, and Young Lord Cha-Cha Jimenez, they all sacrifice their lives for us to be here present. Take your sacrifice, cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife, take your sacrifice. Take your sacrifice, cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. When the revolution comes, black cultural centers will be fought, supplying revolutionaries with food and arms when a revolution comes. Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. Allora, sulle note di M1 e Bonno ci prepariamo a concludere la puntata, direi ultima prima della dovuta e doverosa pausa natalizia per dedicarsi allo studio, a buffate e quant'altro, quindi Parole Ribelli vi dà appuntamento a gennaio. Nel frattempo, se sentite la nostra mancanza in queste vacanze, potete andare a riascoltarvi i podcast della trasmissione dal nostro blog qa-torino.blogspot.it, dove appunto trovate tutte le puntate delle ultime settimane. Noi vi salutiamo, tra pochissimi minuti andrà in onda il GR, a seguire Cattivi Pensieri con Simone e Toshi già pronti al di là del vetro. E niente, buon proseguimento di ascolto e una buona giornata. Un saluto da Francesca. Un saluto da Costanza.